Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Gina, portagliene un po' anche al nonno, dai. Ma ha già mangiato? Bademi, il babbo del mio babbo, lo chiamavano Carnazza. È morto a 107 anni e ancora, oh! Non ne posso più. E allora? Buono sto Sangiovese. È buono, eh? Senti un po', carino, dove sei stato ieri sera? Io? Al cinema, babbo. Al Fulgo. E cosa faceva? C'erano gli indiani, ci tiravano le frecce, quante ne tiravano, babbo? Ne avranno ammazzate. Ma te cosa facevi? Cosa sì? Cosa è successo? Che meglio per te? Niente soldi. E vieni a fare il manovale sotto di me. Però mi paghi, babbo. Ti pago a martellate sulla faccia. Te mi devi dire di chi è figlio questo pezzo di merda. Io alla sua età lavoravo già da 3 anni. Sì, lo so, babbo, che borsa. Davi tutti i soldi alla nonna. Ma adesso basta, su, venite a mangiare. Ecco il cappello del cavalier Biondi, andate sì. Eccola la santa, benedetta, agognata, vituperata, ma allo stesso tempo idealizzata famiglia di una volta. Questo è il modello tradizionale. Questo è lo schema in cui si riconosce l'astratta teoria di chi dice difendiamo la famiglia. Quale? Quella naturale. Beh, questa è la famiglia naturale, non ci prendiamo in giro. Fellini la colse perfettamente nella Marcord, ma ci sono un'infinità di esempi nella nostra commedia di quello che è la famiglia. La famiglia Anquacervo, che è esteriormente composto da alcune persone che si sono ufficialmente accoppiate, hanno generato dei figli e considerano e consacrano la loro vita all'educazione dei figli. Che poi dietro questo possano nascondersi degli universi terrificanti, questa è poi l'esperienza personale di ognuno che conosce a fondo, sente sulla sua pelle, vive per tutto il tempo della propria esistenza il vero senso della famiglia. Beh, noi siamo dei nostalgici della vecchia famiglia, un po' quando viene invocata la famiglia, quando la gente scende in piazza a difendere la famiglia, sembra un po' quei commedianti in costume che fanno la giostra della Quintana a Foligno, il Calen di Maggio a Assisi, si vestono da paggetti medievali o da damine rinascimentali e rievocano un'epoca che non esiste più. Come sentono i giovani la famiglia? Come vedono la famiglia di fronte a dei modelli che ormai sono in contrasto? Voi, per quanto volete, fate la figurina della mammina, il papino si tengono per mano, col cuoricino dietro, due bambini vicini, maschietto e femminuccia, uno vestito da maschietto, l'altro vestito da femminuccia. Sta roba non esiste più, esiste soltanto una sorta di iconografia esteriore. Quando esiste, rappresenta una rarità, rappresenta un punto di diversità rispetto alla regola. E come li vedono i ragazzi la famiglia? Beh, oggi vogliamo parlare di famiglia, ma una volta tanto non parlare da quelli che indicano la famiglia come modello da seguire, no, come viene percepita la famiglia, chi famiglia ancora deve farla. E davanti a un'infinità di possibilità: può sposarsi con una donna, sposarsi con un uomo, può sposarsi fra un po' anche con un animale da cortile, nessuno lo vieta, può avere dei figli senza avere un padre legittimo, una madre legittima, può organizzare una comune e starsene in 4-5 insieme, può creare degli esempi poliamorosi in cui naturalmente non ci si fa del male, non ci si pesta i piedi, non ci si vuole del male e si amministra un bene comune che possono essere anche dei figli, ma anche la gestione di una casa, la gestione di un patrimonio, e poi ci si ama tutti assieme. Oggi io e te usciamo insieme. Ah no, caro, avevo già un esempio, un appuntamento con l'altro. Vabbè, scusa, allora usciamo domani. Ma ci si vuole tutti bene. Cessa il senso di possesso, che è una delle maniere perché ci si sposa, per suggellare il possesso di una persona. Ti metto l'anello al dito e guai a te se non mi sei fedele. Beh, questo lo sentono ancora le nuove generazioni. Vediamo un semplice assaggio. Noi abbiamo questa volta dedicato lo sforzo dei nostri ragazzi, che sono nello specifico grazie a Enrica, Davide e Massimiliano, che già lo sapete sono quelli che sono stati i nostri allievi al Master in Radio di Media Management e Content della Business School del Sole 24 Ore. Gli abbiamo detto: beh, adesso che avete studiato, fateci vedere cosa siete capaci a fare. Il tema oggi è la famiglia. La comune dei 5 ragazzi fuori sede che stanno a Milano, perché devono seguire il corso al Sole 24 Ore, come la pensa riguardo al modello di famiglia? Frigo vuoto. Frigo vuoto. Convivi e lascia vivere. Gli uomini sono una parte importante della nostra colonia. La riproduzione, no? Avete messo su una bella associazione a delinquere. Nessuno di voi ha voglia di vivere con un uomo, che so, innamorarsi. Noi procreiamo perché questo è il desiderio della nostra divinità. Capisco. Solo femmine, giusto? Che succede se per caso qualcuno ha un maschio? Che fate allora? Beh, dipende. Che film terribile. Ma che film è? Un gruppo di femmine che si fanno mettere incinta da uomini occasionali e poi li uccidono. Grace, non è proprio così. È una trasposizione del femminismo del terzo millennio. Ma quali femministe? Queste sono delle malate mentali che prima ti schiacciano l'occhio al bar davanti a una birra, poi ti corrompono e dopo che hanno ottenuto l'inseminazione ti presentano il conto. E che cazzo di conto? Cavolo, un film proprio leggero leggero. Vabbè, ma è un'estremizzazione, una forzatura per far capire che oggi la donna può fare a meno dell'uomo indipendente. Ah beh, io condivido. Ma che condividi? Ma certo, noi oggi siamo capaci di far tutto, da montarci la mensola a farci pure i figli da sole. Quanta invidia e rabbia nei confronti dell'essere superiore. Ma piantala, Max. Io sono d'accordo con Grazia. Però sarebbe più bello condividere un progetto di famiglia con un partner. Ma quale famiglia? Che massimo 3 anni e finisce sulla gazzetta del paese perché vi siete accoltellati. Ma stai zitta. Dovremmo tornare ai tempi in cui noi uomini andavamo a caccia per farvi mangiare. E voi invece nella caverna a badare a cucciolo di papà. Tutto funzionava alla grande. Sì, ma io penso che adesso sia tutto il contrario. Voglio a casa fare i casalinghi e ne portiamo a casa la pagnotta. Quindi preferisco crescermi un bambino da sola. E ti dico di più, posso anche scegliere i geni migliori alla banca del seme in Spagna o in Olanda. Addirittura, no, vabbè dai, Grace, così è troppo. Va bene essere indipendenti, però veramente ti sceglieresti il seme di uno sconosciuto dal catalogo? E che era il regalo coi punti del supermercato? No, io forse farei così però. Prendi una persona che conosci, che è sana, di buona costituzione, con un buon sangue. Vabbè, un trombo amico di fiducia. Ma sì, gli organizzi un weekend, un cocktail tira l'altro, una bugia in buona fede, una pillola mai presa e boom, baby in arrivo. E certo, se non succede la prima sera, succede la seconda. Ma lui poi è d'accordo? Ma se la gravidanza va in porto, mica glielo devi dire. No, glielo devi dire. Ma no, lo seduco e lo abbandono. Scusa, grazie, ma non avete fatto quel weekend al mare qualche settimana fa, tu e Max? No, noi. Ma come no? Che doveva venire Giulia, ma ti ha mollata all'ultimo. Ma come no, dai, lo possiamo pure svelare, questo piccolo segreto. Sono cose che succedono tra amici, ma niente implicazioni, l'abbiamo fatto. Max! Vabbè dai, è successo tra me. Cazzo, ma tu non prendevi la pillola? Tremate, tremate, tremate, voi che pensate che ancora sia come una volta, che la gente teme che possa avere qualche rapporto non solamente infecondo. 800 24 00 24, vedete come vedono i giovani la nuova famiglia? Cominciate a mettere in dubbio quella che è la vostra attuale. A tra poco, tra un istante. Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, stiamo parlando della percezione di un insieme che sta mutando, che si chiama famiglia, che ancora qualcuno insiste nel pensare, nell'illudersi che sia un gruppo che si rifà più o meno a dei modelli tradizionalmente acquisiti e metabolizzati. Ma è così, ma fino a un certo punto, anche se noi ci fermiamo alla situazione nazionale, il rapporto annuale del 2017 dell'Istat dice che in realtà sta cambiando la percezione, cambia l'identità di classe, non esiste più la classe operaia, la classe impiegatizia, e di conseguenza cambia anche la percezione degli aggregazioni all'interno di quello che una volta chiamavamo classi. Ci sono i giovani che ormai vedono un sistema molto più fluido. A rimanere ancora ancorato al modello tradizionale sono alcune realtà piccolo borghesi ma attempate, e alcune realtà regionali sono ancora delle fanciulle 45enni che stanno a aspettare il fidanzato o l'uomo che devono sposare. Maura Manca, buongiorno. Buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Maura Manca, che è presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, ci ha deliziato nelle settimane passate su temi riguardanti il mondo giovanile come l'autolesionismo, e grazie a lei abbiamo per la prima volta ufficialmente rivelato che tutto il problema della balena blu in realtà era qualcosa di molto diverso da quello che campeggiava nei titoli dei giornali, sempre legato al fatto che i giovani si tagliuzzano, si fanno male, sanguinano e via dicendo. Poi riprenderei proprio il tema, Maura, da quella che è la tua battaglia. Maura Manca vuole che esca fuori dal tabù del nascondimento nelle scuole italiane il fatto che i ragazzi, oltre ad avere problemi di tipo alimentare, che nascono sempre comunque da complicati rapporti con la loro famiglia, ecco che entra la famiglia, famiglia in campo, sempre più frequentemente si tagliuzzano. Una percentuale altissima di ragazzi si taglia, si fa male, sanguina, lo fa in posti dove non si vede normalmente, lo fanno con molta insistenza. Anche il tagliarsi, anche l'autolesionarsi ha a che fare con qualcosa che non corrisponde più al modello di famiglia che si vorrebbe loro imporre come esito del futuro, secondo te, Maura? Assolutamente sì, tantissime volte il loro disagio e il loro problema nasce proprio per un conflitto enorme che c'è tra le due generazioni, tra loro che vorrebbero dei genitori, vorrebbero più accoglienti, più comprensivi di quella che è la loro adolescenza, e dall'altra parte quindi un muro, e questo muro loro non riescono a sconfiggerlo, a superarlo e ad affrontarlo, e si fanno del male da soli. Ecco, però c'è una cosa che non capisco, però non la capisco benissimo, è naturalmente in una logica di miglior sopravvivenza che anima ogni generazione. Da una parte vorrebbe una famiglia tradizionale, addirittura zuccherosa, addirittura confacente a un modello astratto di famiglia accogliente e comprensiva, che in piccolissime percentuali esiste realmente, è luogo di conflitti la famiglia. D'altra parte però loro vorrebbero vedersi proiettati una realtà poliamorosa, eclettica, divertente, alternativa. Com'è possibile? Assolutamente verissimo questo. Cioè, loro vogliono, perché dal genitore vogliono la tranquillità, il contenimento e la calma, e nello stesso momento vogliono la completa libertà di potersi esprimere come vogliono, ma molte volte l'esprimersi in maniera fluida significa il non affrontare anche non voler affrontare le responsabilità, non voler affrontare i problemi. Non è solo una scelta. Ferma lì, sì. Sei tradito. Hai detto quello che esattamente dice ogni donna oggi dai 15 ai 50 anni, quando c'è un uomo vicino, non vuole affrontare le responsabilità perché non la sposa, non mette su famiglia, non è monogamo totalmente con lei. Come mai? No, non parlavo di quel senso, di quelle responsabilità. Sì, ma parlavo di quelle loro interiori, cioè dell'affrontare anche se stessi, in termini anche di scelta di identità. Molte volte i ragazzi di oggi, ecco perché ti dico non è quello, i ragazzi di oggi addirittura non fanno una scelta neanche in termini di identità sessuale o di orientamento sessuale. Mi dicono non fa niente, quello che viene viene, maschio, femmina, una qualsiasi cosa. Non si fermano neanche a ragionare su questo. Tanti ragazzi oggi, non c'è una distinzione e una differenziazione da questo punto di vista. Però lo capisco, Mara, lo capisco. Se l'Istat dice che abbiamo perso l'identità di classe, ma abbiamo perso anche l'identità di genere, ma chi se ne importa, diranno, che ci frega, non c'è più schema, però vogliono una mamma e un papà, la mamma che gli faccia le ciambelle e il papà che si metta le pantofole, fumi la pipa e apra il giornale con il cagnolino vicino, come nelle litografie americane degli anni 40. Perché gli dà la tranquillità, quell'immagine di famiglia è quella trasmessa fondamentalmente, ed è quella che gli dà la tranquillità, perché anche la scuola di oggi continua a trasmettere, a ricercare questo modello, e questo modello è quello che viene ancora decantato come modello di riferimento, e in quel momento loro a livello di ideale, di riferimento psichico, per loro quella è la tranquillità, per cui in casa vogliono quello. Nello stesso momento vogliono vivere la propria vita nella totale libertà espressiva. Sentiamo degli ascoltatori. 800 24 00 24, qualunque sia la vostra esperienza personale, il vostro punto di vista, mi interessa che qui lo esponiate. Il modello di famiglia a cui tutti ci rifacciamo è quello dei sussidiari degli anni 50, è quello che ancora esiste o perlomeno deve esistere ed essere migliorato, oppure va rimesso in discussione ex novo? Giampaolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. L'ascolto. Io sono un po' emozionato, non ho la sua parlantina, voglio dire solo semplicemente... Che mestiere fa lei? Io faccio consulente finanziario. Se io sapessi fare consulente finanziario oggi soffrivo meno, purtroppo soffro e parlo, ma lo dico con cognizione di causa. Sì, andiamo avanti. Benissimo, io voglio dire allora, sostanzialmente io sono un padre consapevole e un padre orgoglioso di quello che ha fatto. Sono contento. Una persona che ha una visione del futuro e vorrebbe un futuro migliore di quello che abbiamo. Per avere un futuro migliore, nessuno si augura per la famiglia un disastro, però questo è scontato. Ecco, allora, secondo me la famiglia è una. La famiglia è quella, adesso ne comincerà a prendermi in giro, no, non c'è problema. Non sono una persona rispettosa. Ha già, ha già preso in giro un tono anche scherzoso, simpatico, quelli che la pensano come me. Siamo nel Medioevo, ha detto come ci vediamo, la mamma che sta a fare non mi faccia porta a casa i soldi. L'ha detto due minuti fa, era in linea. Così rozzo. Dico semplicemente che chi conosce. Lei parla, lei il suo punto di vista. La sua famiglia è composta di una moglie, innanzitutto, che deve pensarla sempre come la pensa lei. Glielo auguro. Assolutamente. Allora, io voglio dire questo: la famiglia è una. Con la F maiuscola. Dei figli, non è manco detto che la pensino sempre come la pensa lei, solo questo. No, assolutamente, ho tantissimi amici che non la pensano come me, però voglio finire il concetto. È fatta da un padre maschio e da una madre femmina, possibilmente, io dico, sposati, possibilmente, non vuol dire in chiesa, comunque sposati. Legalmente sposati con una famiglia. Non ho in testa la famiglia del Mulino Bianco, attenzione, la famiglia. Ma la capisco, è quell'unione. È quell'unione di sentimenti, ma di sangue, di DNA e di percezioni che insieme costruisce un progetto. Ma per assurdo, l'ha detto una cosa molto giusta. Ma se sua moglie fosse stata infeconda e lei dovesse adottare un bambino, sarebbe una famiglia lo stesso? Perché lì non c'è il DNA al sangue. No, allora perché ci mette di mezzo il sangue e il DNA? Assolutamente sì. Allora, è un'aggregazione di persone che si vogliono bene, che può anche non esserci l'unità di DNA e di sangue. Assolutamente, sappiamo benissimo che ci sono dei casi, ci sono tantissimi bambini negli orfanatrofi che aspettano di essere adottati. Purtroppo state, mi spiace parlare anche di lei Gianluca, sdoganando una visione della famiglia che non è, e della società che non è quella vera, perché la vera famiglia, la maggior parte anche degli italiani, delle persone che conoscono, sono convinti che la famiglia con la F maiuscola è padre, madre, figlio e figlia, possibilmente con tutti i problemi che ci sono nella vita, economici, finanziari, di salute, e si risolvono insieme. E io parlerei di più, parlerei anche di famiglia allargata, parlerei dei nonni, parlerei della nonna, quindi gli zii anche, di un sistema che protegge famiglia. Va bene, lei è fortunato, è fortunato. Può creare questo sistema, le dà soddisfazione, le dà orgoglio, pensa, è convinto, ma le auguro perché per tutta la vita si mantenga la sua convinzione, questa sia il modello di famiglia. Ahimè, devo dirle che non accade sempre dappertutto, non è così per tutti. Abbia rispetto per le persone che in questo modello non si rivedono più. Ce ne sono tante, esistono anche loro. Non può essere imposto all'altro un modello perché a lei fa star bene questo modello. E si ricordi, questo modello a lei andrà bene finché andrà bene a tutti quelli che stanno nella sua famiglia. Lei deve sempre fare i conti con altri esseri umani, per primo sua moglie. Non è detto che sua moglie per sempre abbia in testa questo perfetto modello, vada bene anche a lei. E il giorno che sua moglie non andasse bene, dovrebbe affrontare un problema, rendersi conto che c'è anche un'altra fetta di umanità che l'ha persa diversa da lei. Adesso devo fermare la trasmissione perché devo dare un attimo la linea, solo un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Frigo vuoto. Frigo vuoto. Convivi e lascia vivere. Sì, ma... Ok, però... Lo so che è fatta così, che... Va bene, ciao. Oh, ma con chi sta parlando Harry? Scommetto che sta parlando con i suoi. Carissimi... Harry, con chi ce l'avevi prima al telefono? E indovina, ero con i miei. Lo sapevo, ho vinto la scommessa. Sensibilità a livelli esagerati oggi, eh? Ero con mio papà, per la precisione. Dopo aver urlato con mia mamma, però. Non c'è niente da fare, proprio non ci capiamo. Altro che rapporto privilegiato madre-figlia. Lei ha un rapporto privilegiato madre-madre, nel senso che si capisce da sola. Ora ricomincia. Davide, tieniti pronto per lo sproloquio. La vedo lunga, metto su un caffè, va? No, ma dico io, vi pare normale che finisca ogni volta così? Che se non interviene mio padre a calmare gli animi non si arriva da nessuna parte? Ma dai, tra madre e figlia è normale! Ah, normale! Ma veramente io con mia mamma ho un rapporto serenissimo e l'occorrenza mi ci confido pure. Ecco, vedi, non è normale! Io mi trovo molto meglio con mio papà. Sarà perché siamo molto più simili di carattere, parliamo poco, ma in quelle occasioni io dico una cosa e lui capisce quella cosa, non come mia mamma, che ci ricama sopra e capisce quello che vuole capire lei. Sì, vabbè, ora però non esagerare. Può capitare di avere delle incomprensioni, soprattutto tra madre e figlia, eh? Sì, Davide, ma le loro discussioni sono all'ordine del giorno. E come se non bastasse, vivo da solo da una vita, ho quasi 30 anni, eppure fosse per lei dovrei sottostare alle stesse regole di quando ero adolescente e vivevo a casa. Ci siamo passati tutti, Harry, ma poi si cresce. Ragazzi, la volete sapere la verità? Quale? Che per i genitori figli nasciamo e figli rimaniamo anche a 60 anni. Quindi mettiamoci l'anima in pace che... sì, ho capito. Che come dice mia mamma... Figlia mia, lo capirai solo quando sarai genitore. Mauro Banca, ti ritrovi in quello che dicono questi ragazzi rispetto a quello che senti tutti i giorni dei tuoi ragazzi, del tuo osservatorio nazionale dell'adolescenza? Mi sembrava ascoltare le loro voci, devo dire la verità. C'è proprio la cosa che i ragazzi mi dicono è: ma non sono stati figli anche loro? Questa è una delle frasi che mi ripetono anche loro, ma non sono stati adolescenti anche loro? Come per dire, ma nel momento in cui si diventa genitori ci si dimentica di essere stati figli? Questa è la domanda secondo me più gettonata. Ecco, più però adesso ti rivelo un'altra cosa. Questi non sono adolescenti, questi sono già laureati, masterizzati, quindi vanno tutti verso i 30 anni e ancora dicono le stesse cose che dicono i tuoi adolescenti. Sì, assolutamente, perché oggi il genitore tende a rincorrere con il biberon il figlio fino anche alla giovinezza. Questo è un problema, è raro trovare il genitore che li lascia andare, visto un po' tendono sempre a essere iperprotettivi, a controllare, a gestire le vite dei figli, lo fanno per loro, questo è quello che dicono i genitori, per il loro bene, perché il mondo è difficile, cercano di starli dietro in tutto e per tutto. E i figli devono far contenti i genitori, quindi esatto, nasce una doppia valenza di vita, quello che sei veramente, quello che è la tua vita, è la vita che racconti ai tuoi genitori per farli contenti. Esatto, perché c'è una sorta di rincorrere quasi un ideale di un figlio, allora il figlio cerca di essere l'ideale del genitore, nello stesso momento nel mondo reale invece si comporta in un altro modo, e questa è la discrepanza poi che c'è tra... Sì, però questa è anche la formula del medioevo fantastico, ho parlato all'inizio, è inutile gli ascoltatori, esatto. Mi scrive un ascoltatore: grandissimo questo che te le suona come meriti. Io ho altre esperienze di essere stato suonato. Prima distruggete, poi chi non si sa, i pilastri della società, poi vi chiedete come mai, pagliaccio, distruggo i pilastri della società. Se parlo dei pilastri della società incrinati è perché sono già incrinati per sé, non è che li distruggo io a martellate. Roberto, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Niente, io volevo solo portare innanzitutto ottimo argomento, volevo solo portare una testimonianza. Io ho 60 anni, chiamo da Roma, sono sposato da 37 anni, sono ancora insieme a mia moglie e sono ancora innamorato di lei, quindi una famiglia con 4 figli, 3 ragazze, una più grande che adesso ha 35 anni, un ragazzo che ne ha 32 e 2 gemelle, quindi più bella così, famiglia a mulino bianco, proprio classica, ok? La situazione si è evoluta, ovviamente i ragazzi sono splendidi, bravissimi. La mia figlia più grande convive da un po' di tempo con un ragazzo molto, molto carino, molto, con cui hanno un ottimo rapporto, però in realtà c'è un piccolo problema: lei vorrebbe avere dei figli e lui non li vorrebbe avere, quindi stanno proprio in questo momento interrogando su che cosa fare. Cioè lui non li vuole, lei li vuole. Esattamente. E di questo siete a conoscenza tutta la famiglia attualmente? E di questo siamo a conoscenza, ne abbiamo parlato. Beh, no? Parlate insieme. Sì, parliamo insieme, certamente. Oddio, è un po' un incubo per lui, lo capisco, che anche problemi così personali devono essere oggetto di discussione dei suoceri. No, assolutamente. Non che non sono manco suoceri, no, poi. No, esattamente, non vorrei dire di discussione. Semplicemente come si fa tra, direi, anche amici, non solo parenti, perché comunque siamo partecipi un pochino di questa situazione. No? Andrea, mio figlio, è gay, vive da ormai da 3 o 4 anni insieme a un compagno con cui siamo tutti molto contenti, soddisfatti. Speriamo che riescano, che vadano avanti, che facciano una loro famiglia con la F maiuscola, anche se sono due uomini, e per quanto ci riguarda saremmo felicissimi se potessero anche avere dei figli, cosa che attualmente, soprattutto per due ragazzi, è un po' più complicato. Beh, oddio, okay? Ancora non ci siamo arrivati a fare dei figli a un uomo, però poi ci si può arrivare, che ne so. In effetti ci siamo arrivati. La procreazione per altri è una cosa, sì, che ma non è che lo partorisce un uomo, è un'altra cosa. No, ovviamente, da Luca, non è che lo partorisce un uomo, sono mica stupido. Però intendevo dire il concetto. Sì, vabbè, no? Sesso, guardi, mi sembra che il suo esempio è lampante. Lei parte da un modello tradizionalmente costituito, anche felice, non di facciata, mi sembra di cogliere una grande sincerità in quello che dice, quindi non è l'ostentazione quanto sono bravo. Un modello di grande tolleranza, di grande comprensione, che nella mutazione dei tempi da questo modello possono germinare anche delle forme diverse. Le spin-off, per dirlo con un termine moderno, della sua famiglia sono esattamente quelle. Suo figlio che sta con un ragazzo e fa famiglia con un ragazzo, sua figlia che ha un rapporto, con tutti i contrasti che ha un rapporto fra due persone, decideranno se fare o no suo figlio. Sarà un po' spaventato il ragazzo, lo capisco, perché si sente esattamente la stessa pressione che sentirebbe uno sposo con una famiglia dietro quando ci dai i nipotini. Però il modello sta cambiando, lei è la prova che sta cambiando. È inutile trincerarsi dietro. Lei poteva dire a suo figlio: no, assolutamente, ti mando a sfinocchiare in un istituto. Poteva dire a sua figlia: o ti sposi o non puoi convivere con un uomo. Lei è stato apertissimo. Lei sta osservando un modello che sta mutando. È una telefonata perfetta. Matteo, da Livorno. Sì, ciao Gianluca, buongiorno. Io volevo dire che non mi riconosco nel gruppo di giovani di cui parlate in apertura della trasmissione, nel senso che il rifiuto del modello tradizionale della famiglia e questo fare il poliamore, le relazioni aperte, eccetera, lo vedo nei miei amici, lo capisco intellettualmente, eccetera, però secondo me l'istinto umano è un po' diverso, nel senso che nelle coppie che conosco io, nella gente che conosco io, che si mischia in relazioni aperte, in più di un partner, i nomi finti per avere più di un fidanzato, eccetera, poi non finiscono mai e la gente non è mai felice. Questo è un dato di fatto, c'ha ragione lei, in questo ha ragione. Il sistema tradizionale è un sistema tutto sommato rassicurante. Mi metto con una persona, giuro davanti a un prete o davanti a un sindaco, comunque prendo impegno, sarà la persona per la mia vita, e quindi in qualche maniera un po' me lo faccio piacere perché ho preso questo impegno. Il fatto di essere aperti, si può avere l'euforia del cambiamento, ma si è più esposti alle proprie responsabilità. È chiaro che sapendo che uno saltella di sasso in sasso non si arriva mai dall'altra parte del fiume perché è un guado perenne, però sono scelte, il mondo cambia, lei è più rassicurato. A tutti fa più sicurezza avere una persona vicino che sarà quella che ti chiuderà gli occhi o tu chiuderai a lei gli occhi, capito? Tutto sommato ti dà sicurezza. È chiaro che il mondo fuori ci dice che esiste anche altro. La difficoltà, non c'è una formula, io non ho la formula, che ne dicano gli arrabbiati familisti, non ho una formula, osservo una mutazione, è doloroso comunque trovarsi in questa sorta di discrimine in cui non c'è più un modello imposto, è solo quello. Mio padre e mia madre c'era solo quello, sono sposati e sono rimasti insieme tutta la vita, magari sono odiati per metà della loro vita, ma sono stati insieme. Mio padre portava i gatti fuori di mia madre pur odiando i gatti, perché? Perché era così, era rassegnato. Io non mi rassegnerei mai di fare qualcosa che non mi va e mi organizzo diversamente. 800240024, ci fermiamo un istante. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Frigo vuoto. Frigo vuoto. Convivi e lascia vivere. Avete mai sentito parlare di poliamore? In Italia è una pratica sconosciuta, ma in America invece va molto di moda. La triade è composta da due ragazzi, Federico e Damiano, e una ragazza, Elisa. Il loro è un rapporto a tre esente da gelosia. Ma che vogliono questi? Ma sì, Max, è un altro tipo di relazione sentimentale. Un'altra? Sì, certo. Aspetta che cerco su Wikipedia delle informazioni. Poliamore. Eccolo. Un neologismo che esprime il concetto di amore multipli. L'ideale di una relazione poliamorosa è avere una relazione sentimentale e sessuale, onesta, con più persone nello stesso periodo. Un sinonimo di poliamore è non monogamia etica. Ma a me sembra una super cazzola. Spiega meglio. Significa che se io sto con te, tu puoi stare con Enrica. Io avrei qualche dubbio. E vabbè, un uomo con due donne simultaneamente, questa non è la vecchia e classica poligamia? No, Max, perché io, oltre a stare con te, posso stare con Francesco. E Francesco può stare con un'altra o perfino con te. Questo mi sembra già più probabile. Sì, come no. Io insieme a un bisex. Vabbè, Max, ma d'altronde chi è ancora fedele e monogamo al giorno d'oggi? Su, non facciamo adesso gli ipocriti. Tanto vale mettere le cose in chiaro da subito. Non c'è proprio più il ruolo del marito o della moglie. Sono tutti amanti, capito? Sono legami allargati, come le famiglie di oggi, d'altronde. Allora, diciamo che ognuno può avere più storie simultanee. Ok. Ma se una rimane incinta, come si fa? Mettiamo che Enrica ha tre amanti e rimane incinta. Chi si piglia la responsabilità? Ma quali tre amanti? Io sono una ragazza seria. Ma tu hai appena detto che la monogamia non ha più senso. Ma che c'entra con mio figlio? Vabbè, Max, io penso che secondo i poliamoristi suo figlio avrà tre padri e una madre. Sì, bella famiglia, con doppie, tripe prediche e scazzi da genitori. Pensa quando devono decidere a che ora il figlio deve rientrare a casa. Che fa? Fanno il voto di maggioranza? Senti, almeno però non litigano per chi deve andare a prendere i figli a scuola. Su quattro, uno disponibile ci sarà. Sì, vabbè, ma comunque la cosa fondamentale del poliamore è che viene eliminata l'esclusività di rapporto. Sono tutti consapevoli e fedeli del concetto di amore. Un amore allargato, però è sempre amore. A mio paese si dice tutti coi nudi e contenti. È chiaro che poi i condizionamenti familiari si riflettono anche nel modo di pensare dei figli. In questo gruppo di ragazzi di Frigo Vuoto c'è il ragazzo legato, non a caso è siciliano, ma senza dare assolutamente etichette territoriali, ma è fortemente legato al suo modello. Ma vivono lo stesso, nello stesso appartamento. Realmente vivono questi ragazzi assieme, perché sono tutti per fare il master, si conoscono. E quindi realmente loro contrappongono questi punti diversi di vista. Il ragazzo che è legato a un modello tradizionale probabilmente troverà poi una ragazza che altro non cerca che un uomo come quelli di una volta, perché anche detto ci debbano essere questi uomini. Si sono anche stufate probabilmente molte ragazze dei poliamorosi, dei fluttuanti, dei fluidi. Vogliono un uomo che sia un uomo, che puzzi, che faccia l'uomo, e probabilmente lui avrà la sua sistemazione. Ma ora manca, vediamo un po' di capire però, perché non potremo rimanere sempre nell'eterno gioco del vorrei ma non posso o dello faccio per far contenti i genitori. Facciamo delle previsioni, anche se nessuno ha la sfera di cristallo, ma tu ne vedi più di me di giovani. Quale sarà il passo successivo? Perché poi questi modelli tradizionali così fieri alla fine si estingueranno. E questo è fisiologico, è logico che si estingueranno. O perlomeno il mutare anche delle nostre popolazioni, i flussi migratori, cambierà qualcosa comunque. Ma si andrà avanti in questo assemblaggio di nuovo modello? Allora, sicuramente sta realmente cambiando tanto, ma sta cambiando tanto anche a prescindere dal poliamore, perché oggi tanti ragazzi si trovano a avere, a prescindere da questo, due genitori, due madri, quattro padri, perché c'è un separarsi, rifidanzarsi, risposarsi, rifare. Diciamo anche questo, che è fondamentalmente importante, quindi non è solo un discorso da questo punto di vista. Il problema è che sì, si andrà. Discorso che il gap intergenerazionale in questo momento è veramente marcato, molto più del solito e molto più di prima. Questo sta portando a dei ruoli, a cambiare il ruolo genitoriale. Secondo me il problema più grosso non è tanto sulla composizione della famiglia, ma quanto sul ruolo genitoriale. Io lo dico ovviamente da psicoterapeuta, perché il ruolo genitoriale è quello che influenza e condiziona lo sviluppo e la struttura psichica del figlio, per cui a me interessa fondamentalmente quell'aspetto. E ci stiamo trovando, da un lato, il genitore troppo amico, il genitore, come dicono i ragazzi, sciallo, che quindi è aperto a tutto, che fa le cose con loro e approva una qualsiasi cosa, genitori ancora nostalgici e genitori per controllanti, per cui i figli fanno delle vite realmente parallele. Rispetto, sì, esiste anche, però, anche il fenomeno del bimbo minchismo genitoriale. I genitori bimbo minchia ne vediamo a ogni piè sospinto. Sarà anche un modello tradizionale, saranno sposati, avranno i nonni, i nipotini, faranno le vacanze assieme, ma rimangono bambini. Dov'è tutta questa sorta di responsabilità generazionale? Continuano a fare i bambini, ma anche giustamente, perché devono rinunciare a vivere la vita come a loro piace, e con dei ragazzi vicino che a un certo punto si equivarranno, ne abbiamo parlato giorni fa in trasmissione, mettono gli stessi vestiti, fanno le stesse cose, giocano con la stessa PlayStation, probabilmente occhieggiano anche alle stesse persone fuori dal sacro recinto familiare. Come la mettiamo? Questo è il discorso che facevo sul ruolo genitoriale. Non è tanto che il genitore non debba vivere la propria vita, divertirsi e fare quello che deve fare, ma non deve invadere lo spazio del figlio. Quando si invadono gli spazi e si sovrappongono le due cose, questo è un vero problema, ed è il problema di oggi di tanti e troppi genitori, appunto, troppa distanza da un lato e troppa vicinanza dall'altro, e questo crea problemi. Sentiamo Nadia da Milano. Nadia, buongiorno. Buongiorno a lei. L'ascolto. Dunque, no, avevo sentito all'inizio della trasmissione, no, che appunto si parlava questo conflitto che si può avere tra i genitori di una certa età con i figli che oggi sono diventati adulti, eccetera. E come spiegavo al suo collaboratore, io ho 67 anni e naturalmente ho due figli, di cui una femmina che ne ha oggi e che ne ha 40, e ancora oggi discuto con mia figlia. Ma era per dire che io... Cioè ancora sua figlia è vittima del giudizio materno? No, non è, io non giudico, lei vive con suo figlio, e non è questo il problema. E qual è l'argomento delle vostre discussioni? Allora, io volevo aggiungere una cosa. Io sono cresciuta, sono nata nel 49, quindi i miei genitori erano genitori che avevano vissuto la guerra. Quindi io lavoravo già 21 anni, 22, dovevo rientrare a una certa ora e se non rientrava erano i sì, però signora, ho capito, anche mi ha fatto la guerra, è passato il tempo. Che no, lei... no, ma per spiegare la mentalità, è chiaro che con i miei figli invece io ho mollato, no? Cioè, sono ma oddio, c'è una figlia di 40 anni che ancora in qualche maniera si sente di potergli tenere il guinzaglio. No, io non tengo il guinzaglio a nessuno. Letto lei, discuto con mia figlia. Sì, ma infatti c'è sempre da discutere su qualsiasi cosa. Ma non dovrebbe essere terreno di conflitto. Sua figlia dovrebbe avere la sua vita, vedervi, essere felici. Non dovrebbe esserci un diktat materno a cui la figlia deve adeguarsi. Sennò lei continua comunque a costringere sua figlia di avere una doppia facciata. Perché ormai le figlie le conosco, perché più o meno la mia generazione. Quello che si fa e si dice alla mamma è quello che si fa poi nella propria vita reale. Vediamo se facciamo in tempo. Niente, Maura Manca, chiudiamo con te. Abbiamo un minuto alla fine. Come vedi, non si molla. Da una parte non leggo che sono illeggibili i messaggi che stanno arrivando su WhatsApp. Il più carino è dire tu vuoi le famiglie con la madre puttana e il padre culattone, ma io non capisco perché non si può discostarsi lievemente da un modello un po' stantio e essere accusati subito di dissoluzione sociale. Dammi il tuo punto di vista rispetto a questo forte sentimento conservatore e anche iracondo nei confronti di chi pone dei modelli che potrebbero essere, non dico alternative, ma aree di discussione. A prescindere è un dato di fatto, per cui questa è la situazione di oggi, questa è la società, sta cambiando e se noi vogliamo bisogna vedere appunto quello che è la realtà, senza stare attaccati a modelli che oggi ci sono anche, ma non sono solo quelli. I modelli però, come sai, rassicurano, finché uno è attaccato a un modello si sente sicuro. Grazie Maura Manca, alla prossima.